è che noi abbiamo delle sovrastrutture che riteniamo la nostra etica, quanto siamo buoni noi, che invece sono una marea di stronzate. Perché se tu ti comporti in modo anche lievemente aggressivo con me, non c'è nessuna ragione che io non mi vada un po' più in là. Tu puoi avere tutte le ragioni del mondo, cioè essere figlia di Gengis Khan rinnovato, per cui ti hanno picchiato da piccolo in modo furioso, ma questo non significa che allora ti devi scaricare su di me, nemmeno per un attimo. E se io faccio così, sono un vero maestro per te, perché tu non lo puoi fare con me, finalmente io divento la tua scuola, che è quella della natura. I gatti infatti sono odiati da molte persone, perché i gatti spesso rispondono in modo naturale. I cani purtroppo un po' meno, perché poverini, sono così umani, sono come si chiamano, i cani fanno parte del branco, una volta che ti hanno individuato come capobranco diventano gregari. E quindi anche se tu ti comporti da stronzo, come fanno tanti, loro ti seguono, ti scondinzolano. Ma i gatti veri non lo faranno mai. Se tu ti avvicini al gatto e sei nello stato di apertura, lui ti farà refusa. Ma se tu sei così, guarda, lui puoi averlo nutrito di padelle, piglioli, cibi fino a quel momento, si volge e se ne va. Cioè proprio, naturalmente, sono tutte le eccezioni, anche i gatti si umanizzano, però capite di cosa sto parlando. È chiaro che questo che vi sto dicendo vi entra di qua e vi uscirà di là, e quindi non vi servirà assolutamente a nulla, perché le parole non sono mai servite, le esperienze ci vogliono naturalmente, ma a volte c'è chiedersi, ma io sono 40 anni che faccio esperienze, tutte queste esperienze che minchia me sono servite, sono a ripetizione delle stesse cose. Infatti una volta Freud ha pensato, ma sta a vedere che le parole possono curare, visto che fanno ammalare. Ma ci sono le manie, la psicologia come tutto va dietro le mode. Adesso c'è l'iPhone, l'iPad, per un po' andrà avanti così, ma pensate che via 10 anni saranno ancora queste cose, è diverso. Perché dopo un po' si satura, c'è la curva, c'è il cielo e poi fa così. C'era la curva della PNL, c'era un periodo che la PNL, se non faceva PNL eri scemo. Poi è fatto così, adesso sono altre cose, fa così, fra un po' faranno tutte così, non c'è niente che dura, persino le religioni fanno così, c'è il culmine, poi scendono. Ma ci sono cose che invece sono eterne, e le cose eterne ce le hanno dette i grandissimi maestri sono eterni. E coloro che adesso riprendono le parole, grandissimi maestri, cioè ripetono, sono importanti. Quindi sicuramente non vi accadrà nulla in conseguenza delle parole che vi ho detto, ma se vi dovesse accadere, non ve la prendete. Se dovesse accadere che tornate a casa e guardate il mondo con occhi diversi, e per esempio se state frequentate qualcuno di prepotente, improvvisamente vi rendete conto che lo guardate con occhi diversi, non per criticarlo, non c'è niente da criticare, ma vuoi dire, ma a che distanza voglio stare e cominciaste a applicare l'intelligenza della ameba? Non dico che ci riuscite subito, perché la meba è molto intelligente. E noi siamo molto condizionati, condizionamento forte.